You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 che ci porta ogni sabato sera in una parte del mondo che in qualche maniera appartiene anche all'Italia, perché parliamo di stranieri che vivono in Italia o di italiani che hanno radici altrove. Questa sera parliamo di attualità e parliamo di Ucraina. La comunità ucraina in Italia è veramente popolosa, è la quarta comunità straniera in Italia. Ci sono circa 200.000 ucraini in Italia, la maggior parte donne, e se vi voltate intorno alla vostra casa qualcuna la trovate, perché spesso queste donne si occupano dei nostri anziani, dei nostri bambini, di tenere ordinate le nostre case. L'ospite di questa sera è una giornalista, ci racconterà qualcosa del suo paese e anche della comunità ucraina in Italia. Io do la buona serata a Irina Cascei, buonasera. Buonasera. In Italia da tanti anni, no? Sì, da quasi 9 anni. Come sei capitata? Come inviata speciale, cioè è stata la volontà della mia testata e poi sono rimasta qui. L'Italia mi piace molto ed è stata la mia scelta, ho scelto io il paese. Irina, 9 anni fa quando sei partita dal tuo paese tutto era molto diverso lì, no? Sì. Ora si è davvero trasformato e purtroppo in queste ore vediamo che questa trasformazione è drammatica, no? Sì. Da che zona dell'Ucraina arrivi? Io vengo da Kharkiv, è la seconda città dell'Ucraina, conta 1,5 milioni di abitanti e dista una 40 di chilometri dal confine con la Russia. Tu sei anche di lingua russa? Io sono bilingue, russo-ucraino, e sono anche di sangue misto, russo-ucraino. Qual è la situazione nel tuo paese, in questa grande città appunto che ci raccontavi dell'Ucraina? Nel paese, come sapete, c'è attualmente la guerra non dichiarata con la Russia, siamo stati aggrediti, ovviamente soffriamo molto questa guerra e la mia città è quella che accoglie forse il maggior numero dei rifugiati, profughi, feriti della guerra, perché dista pochi chilometri dalla zona dei combattimenti. Abbiamo tutti gli ospedali pieni e abbiamo molte famiglie che necessitano di tutto, di cibo, di casa, di medicinali, quindi abbiamo circa 120.000 di rifugiati solo ufficialmente in città e non ufficialmente probabilmente il doppio, perché non tutti si registrano. Tu hai parenti lì? Mio padre e mio fratello lì. Sono preoccupati, non hanno mai pensato a una possibilità tale, abbiamo sempre visto la Russia come un partner, anche se un pochino prepotente sono sempre stati, però li abbiamo sempre visti come un amico e assolutamente, minimamente non ci aspettavamo un'aggressione così sfacciata. Sappiamo che proprio in queste ore molti ragazzi vengono richiamati al fronte. Sì, sì, al fronte combattono i miei amici, i miei coetanei, ma anche il mio ex insegnante di storia della nostra scuola, lui è stato uno dei cosiddetti cyborg, quelli che difendevano l'aeroporto di Donetsk. È un signore ultra quarantenne, ma è andato lì a combattere. Se tu dovessi spiegare a una persona che non sa nulla della crisi ucraina, in parole molto semplici, che cosa è accaduto? Perché noi abbiamo visto un precipitare degli eventi, no? Il Maidan è dovuto proprio all'insofferenza del popolo nei confronti dell'ex presidente, che veramente di bene per il popolo non ha fatto niente. Il Maidan è una rivoluzione dal basso, perché le persone non ne potevano più, semplicemente. E questo è accaduto l'anno scorso? Sì, adesso è un anno esatto dai primi morti. Le persone, dicevi, non ne potevano più del governo Yanukovych? Sì, non tanto, perché la vita era comunque grama, non si guadagnava, non c'era la libertà, erano violati tutti i diritti umani, ma per un fatto semplice che ha fatto indignare proprio, che lui... Per 2 anni ha raccontato al paese che ci sta portando verso i valori europei, verso l'avvicinamento con l'EU, e dopo ha detto no, questo non lo faccio, e ha preteso che il popolo lo accettasse. Il popolo ha detto no, così non va bene, dobbiamo decidere noi. Quindi, in seguito a pressioni da parte del governo di Mosca, lui ha rifiutato di firmare questi accordi che vi avrebbero avvicinato all'Unione Europea e il popolo si è ribellato. Sì, poi c'è stata anche la questione finanziaria in mezzo, che lui ha portato il paese al baratro del default e doveva salvarlo in qualche modo. Mosca aveva promesso 15 miliardi di dollari. C'è stato anche questo aspetto. Dopo aver firmato i documenti importanti che avrebbero risolto la crisi, lui fugge insieme ai suoi beni, molti miliardi di euro portato via dal paese, fugge in Russia, che lo accetta a braccia aperte, ovviamente. E dopodiché, il 1 marzo, Putin chiede ai suoi organi amministrativi di poter introdurre l'esercito in Ucraina. E gli organi ovviamente gli dicono di sì, perché è un dittatore, lì il no non è previsto. Così inizia la guerra, così iniziano a staccarci la Crimea e dopo proseguono per il Donbass, anche per coprire la Crimea, perché alla Crimea ci tenevano veramente, ci tenevano che tutto fosse tranquillo lì, la volevano dentro il proprio paese, mentre il Donbass, la zona dei combattimenti attuale, serviva solo come uno strumento per poter influenzare fortemente sulla politica estera ucraina. Ти права, я дикий мужчина. Ти права, я дикий мужчина. Ти права, я дикий мужчина. Яйца, табак, перегары, щетина. In tanti siamo bilingue, praticamente costruiamo la maggioranza, solo che nessuno ci pensa. Ci vede parlare in russo e quindi dice ok, questi sono russofoni, quindi russi, quindi amano Putin. No, non è questo. In verità la sequenza è falsa. Ci sono ucraini bilingui che si sentono perfettamente ucraini e non c'è nessun problema per noi nel bilinguismo. Noi spesso anche nelle trasmissioni TV vediamo un ospite che parla ucraino, un ospite che parla russo, non c'è nessuna traduzione e tutti capiscono perfettamente tutto. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Меня говнюком, да я все время бухой. И твою жопу при людях хватаю своей волосатой рукой. Bentornati, indovina chi viene a scena. Questa sera parliamo di Ucraina, di quello che sta avvenendo e anche della presenza qui di questa comunità molto numerosa di persone che provengono da quel paese. Fra loro c'è anche Irina Cascei, giornalista, che ci sta aiutando a capire che cosa sta avvenendo e ci stava dicendo che l'anima russa e l'anima ucraina hanno sempre abbastanza convissuto. Anche in cucina queste due anime sono state sempre presenti. Noi prendiamo sempre spunto un po' dai gusti, dalla cucina, per cercare di capire l'identità delle persone. Certo, noi abbiamo molte influenze nella cucina ucraina, anche le influenze russe. Il borscht, che è la nostra zuppa rossa, viene considerata ucraina, è nata in Ucraina, quindi è il piatto nostro, mentre la zuppa molto tipica dei russi, sci, che è la zuppa bianca a base dei cavoli, praticamente non viene mangiata in Ucraina, è molto raro. Poi abbiamo i piatti anche georgiani, abbiamo i piatti dell'Azerbaigian. Lo scrittore francese Honoré de Balzac, visitando l'Ucraina a metà 800, contò ben 77 modi diversi di fare il pane, dai pampushki, panini soffici bianchi fritti, insaporiti con aglio e olio, perfetti per accompagnare il borscht, ai pani dolci e dalle più strane forme, serviti per le feste o per i riti religiosi. I piatti tipici ucraini prendono spunto dai piatti poveri contadini che hanno come base cereali e verdure come patate, barbabietole, cavolo e funghi, conditi con aglio, aceto e aneto. Il borscht è la tipica minestra nazionale perfetta per scaldarsi d'inverno. La versione normale è quella fatta con barbabietola, lardo ed erbe, ma è molto diffusa anche la versione verde, molto aromatica e preparata con acetosella. In ogni regione ci possono essere delle varianti come quella con la salsiccia, il midollo o le mele marinate. I vareniki sono il piatto più consumato in Ucraina. Si tratta di ravioli a forma di mezzaluna con un ripieno di verdura o carne. Si possono provare con più di 50 ripieni diversi e vengono normalmente serviti accompagnati dalla panna acida, la smetana e da burro fuso. Molto popolari anche gli olubzi, foglie di cavolo arrotolate ripiene di riso condito, carne o grano saraceno, a cui viene aggiunta sopra della salsa fatta con del pomodoro. Tra le prelibatezze più curiose e meno banali segnaliamo il salo, ovvero il lardo. Gli ucraini amano talmente tanto questo prodotto da avergli dedicato canzoni e poesie. Intanto ci ha raggiunto un altro ospite, Nazar Motrovic. Buonasera. Buonasera. Ha fatto l'alberghiero e lavora come cuoco di Fano. È anche la voce di un complesso musicale, i Cube. Poi ci racconterà meglio. È curiosa questa cosa perché abbiamo scoperto che insomma lui è la voce di questo complesso. Il bassista era un ragazzo di origini russe, no Nazar? Sì, è vero, è uno di una città che si chiama Volgograd. Quindi insomma questa crisi russo-ucraina nel vostro caso, nel caso di ragazzi di origini ucraine e russe ma ormai italiani, si è declinata attraverso i vostri sogni in maniera molto pacifica, in un'amicizia cresciuta insieme, no? Anche sui banchi, mi pare di capire, dell'alberghiero. Sì, abbiamo fatto insieme alberghiero e abbiamo questa band in comune. K-Cube. So che lui ha lasciato da poco la band, non sono stati problemi politici o diatribe di questo tipo a farvi separare, spero? No, ha delle cose familiari, gli è nato figlio, quindi deve dedicare più tempo alla famiglia. Nazar, tu invece che cosa ne pensi di quello che sta accadendo? So che tu vieni da un piccolo paese, no? Da dove? Paese a sud-ovest dell'Ucraina, il capoluogo si chiama Chernivtsi, è al confine con Romania. E lì l'eco di quello che sta accadendo nel Donbass in gran parte si sente. Parecchi ragazzi sono andati a fare militare, parecchi richiami, una situazione non è dei migliori, diciamo. Tu hai parenti lì che sono rimasti lì, che sentite? Sì, ci sentiamo spesso, infatti anche loro sono abbastanza preoccupati per quello che sta succedendo in Ucraina. Quanti anni hai, Nazar? Io ho 32 anni. Quindi se fossi stato lì probabilmente saresti stato richiamato? Sicuramente, perché ho fatto anche militare nel reparto di artiglieria, che sono molto richieste adesso al fronte, però essendo all'estero sono giustificato di non andarci. Nazar, come sei arrivato in Italia? Come mai? Mia madre è arrivata nel 2001, quindi lei era già qua. Io invece l'ho raggiunto nel 2004, ho fatto un corso di italiano all'Università di Perugia e dopo ho iniziato a fare alberghiero. Quindi circa 10 anni fa sei arrivato. Sì, sì, sono 10 anni. La mamma che cosa faceva in Italia? Cosa fa? La mamma adesso lavora in un ingrosso di abbigliamento, dove c'è richiesta la lingua russa, infatti con questa crisi è calato anche il settore di abbigliamento, che avevano tanti clienti russi, con la crisi che c'è adesso non vengono più. La mamma aveva iniziato qui con questo lavoro, qui in Italia? No, all'inizio lavorava come tutti, pulizie, dopo imparando la lingua, piano piano. Irina, è in effetti uno dei modi con i quali queste donne ucraine arrivavano in Italia, no? Quello di aiutare le famiglie, di rendersi disponibili come colf badanti. Molte hanno lasciato la famiglia in Ucraina, gli uomini, i mariti, i figli, no? È stato proprio un vero e proprio esodo che noi abbiamo vissuto e che voi avete vissuto. Molte, come la mamma di Nazar, poi hanno trovato altri lavori, però le ricordiamo così, no? Come gli aiuti più preziosi che abbiamo avuto. Come stanno vivendo queste donne questa crisi? Sono, sì, per l'80% la nostra immigrazione è femminile. Di queste donne la maggioranza in effetti si occupa dei lavori di casa, bambini, anziani. Normalmente provengono dall'ovest dell'Ucraina e lì sono tutti schierati ovviamente con il governo di Kiev, è normale, è naturale, e molte di loro hanno figli al fronte che combattono i soldati, io conosco alcune personalmente, hanno veramente il grande cuore, il grande coraggio, cercano di non far vedere il proprio dolore, ma so che alcune di loro dormono con il cellulare acceso accanto al letto per vedere se c'è qualche emergenza, se il figlio contatta, se succede qualcosa. Quindi non stanno mai molto tranquille, ma cercano di non farlo vedere o intuire dalla famiglia che accudiscono. A date prava, я дикий мужчина. Ти права, я дикий мужчина. Ти права, я дикий мужчина. Яйца, табак, перегары, щетина. Nazar, tu mi raccontavi degli stipendi, no? Della zia, della nonna, che hanno avuto un deprezzamento davvero sconvolgente. Sì, con svalutamento di nostra valuta griuna, ma anche percepivano prima di questo svalutamento, diciamo, stipendi e pensioni piccole, adesso sono dimezzate praticamente. Mia nonna percepisce una pensione intorno a 70 euro. E anche la mia zia, che ha fatto per 20 anni preside di un liceo scientifico, percepisce 60-70 euro al mese. Così. Nazar, ti ritieni ormai quasi italiano? Oddio, mi sento sì, a un terzo italiano, a due terzi ucraino, così più vero. Pensi che rimarrai in Italia? A me mi piacerebbe tornare in Ucraina, perché voi non vuoi la mia patria, però non potendo trovarmi una occupazione che mi dà anche certe soddisfazioni, certamente rimarrò qui. Anche perché la situazione lì adesso è piuttosto difficile, non ci puoi tornare proprio per non essere richiamato, no? Quindi... Sì, anche per quello. Irina, tu rimarrai in Italia? Ormai sì, perché anche mio marito è italiano, quindi sì. La tua famiglia ormai sono radicata qui. E mi dicevi che non riesci a portare il papà qui, che vorresti portarlo per una ragione di sicurezza, ma che non riesci. Sì, io vorrei averlo qui con me, sarei molto più sicura. Lui è già abbastanza anziano, ma non vuole. Preferisce rimanere lì nonostante tutti i rischi. Perché quello è il suo paese? Probabilmente sì, anche se è nato a Mosca. Però da moltissimi anni vive in Ucraina. Ti aspettavi un'escalation così drammatica nelle ultime settimane? Nelle ultime settimane sì, direi che ormai me lo aspettavo, perché è chiaro che Putin non vuole fermarsi, non è la sua intenzione, non è il suo scopo quello di fermarsi, e quindi sì, loro avendo un esercito molto più forte del nostro, avendo tutte le possibilità di vincere, lo stanno facendo. Dagli accordi di Minsk, quelli firmati a settembre, i terroristi, non li posso chiamare diversamente perché lo sono, e poi se volete lo spiego perché, hanno preso altri 500 chilometri quadrati di territorio dopo aver fermato il cessato il fuoco. Hai usato un termine terrorista e ci hai accennato al tuo pensiero su questo. Cosa volevi dire? Sì. Bisogna capire che non sono gli insorti, i poveri minatori del Donbass che volevano qualcosa e per questo protestavano. C'erano dei terroristi russi infilati lì appositamente che facevano certe cose proprio per scatenare l'aggressione, per scatenare l'ira degli ucraini. Ad esempio possiamo pensare al caso del deputato di Horlivka, Volodymyr Rybak, che è stato ucciso brutalmente da loro, gli è stata aperta la pancia, è stato trovato morto nudo dentro un fiume. Insieme a lui, nello stesso modo, sono morti due ragazzi giovani di 20 e 25 anni, studenti. E credo che queste crudeltà i terroristi russi le hanno commessi appositamente per far arrabbiare gli ucraini, per scatenare la reazione aggressiva. Gli ucraini sono molto pacifici, non volevano la guerra, non volevano arrabbiarsi, e a Putin serviva la guerra. Io ho parlato con la vedova di Volodymyr Rybak. Tu leggerai in questi giorni, in queste settimane, quello che avviene in Ucraina anche sui giornali italiani. C'è qualcosa di sbagliato in quello che diciamo, che raccontiamo? È quello che viene fuori dai media italiani rappresenta la realtà di quello che sta avvenendo? Purtroppo spesso no. Cioè, ci sono giornalisti bravi che sono riusciti a capire la realtà, sono andati a indagare e riescono a portare il quadro veritiero. E ci sono altri che o sono superficiali o non vogliono verificare i fatti, non lo so, che portano il quadro completamente distorto, che riporta i fatti senza mai verificarli. L'intervistato gli dice: i russi stanno da 4 secoli a Donetsk. Perché non va a vedere che Donetsk non esiste neanche da 4 secoli? Che la città esiste da poche decine di anni. Там мои ноги, вонючие палки, на которых все в дырках носки. А эти две кучи из пыли и грязи, это мои башмаки. Così, e poi l'attacchi all'identità russa. Nessun organismo internazionale ha mai stabilito che ci siano gli attacchi all'identità o alla lingua russa. Non c'è niente di questo in Ucraina. Però la logica le porta. Secondo te è superficialità, ignoranza oppure c'è della malafede? Io normalmente dico che stare dalla parte della Russia in questo conflitto si può solo in due casi: o essendo mal informati o essendo in malafede. Irina, tu dicevi che la tua città d'origine non dista molto, 30 chilometri se non sbaglio, no? Dal confine con la Russia, quindi tu avrai anche degli amici oltre confine. Sì, ce le ho. Sono molto fortunata perché sono ottime persone, ci stanno appoggiando e dicono che si vergognano per quello che commette il loro governo. Ci sono i russi che ci appoggiano, che provano tanto dolore per quello che avviene, e ci sono i russi che gridano alla guerra. Facciamo la distensione. Grazie, grazie Irina Cascei per essere stata con noi questa sera. Buona serata. Grazie, grazie. E grazie anche a Nazar Motrovic, cuoco e anche fondatore di questo complesso Cube di Fano. Andateli a vedere se siete in zona. Buonasera. Grazie anche a Peter Bescapè per la preziosa collaborazione in regia. A tutti voi per l'ascolto. Un arrivederci, una buona serata. A sabato prossimo. You've got to give a little, that's the glory of love.